Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Disparità di trattamento nelle retribuzioni dei medici, 6.000 euro annui in media di differenza tra chi lavora all'ospedale di Trieste e chi in quello di Udine. Ai medici triestini una delle buste paga più leggere d'Italia. La denuncia di Walter Zalucar, a capo dell'associazione Costituzione 32. La stagnazione sta portando a un aumento delle richieste di cassa integrazione anche in regione. Stando agli ultimi dati INPS elaborati dalla CGIL, sfiorano gli 11.400.000 le ore nei primi 9 mesi di quest'anno. È morta subito dopo il ricovero all'ospedale di Cattinara la donna trevigiana di 77 anni, investita ieri mentre attraversava la strada in viale Miramare nei pressi del bivio. Alla guida della vettura una persona di 89 anni. Per contrastare la violenza giovanile nei weekend, il comune di Pordenone ha varato un'ordinanza che vieta il consumo di alcolici in spazi pubblici fino al 28 febbraio 2025, stanziato un fondo per coprire gli straordinari della polizia locale che intensificherà i controlli, soprattutto nell'area della stazione. Nel nuovo rapporto Caritas, l'immagine di un'Italia in profonda difficoltà. Quasi il 10% degli individui è in una situazione di povertà assoluta, un'incidenza che sale al 30% nelle famiglie con stranieri. Nel 2023 la natalità in Friuli Venezia Giulia è calata del 4% con solo 6.900 nuovi nati. In 5 comuni della regione non risiedono bambini sotto i 3 anni. Un minore su 10 vive in povertà relativa. A pesare sono soprattutto i costi di increscita per latte e pappe. I dati del centro antiviolenza Zero Tolerance del comune di Udine evidenziano un preoccupante incremento delle richieste di aiuto fra il 2023 e il 2024. A ottobre erano già 249 i contatti registrati dallo sportello telefonico, un numero superiore a quello dell'intero anno precedente. Da una parte le nuove malattie come dengue e West Nile dovute anche al cambiamento climatico, dall'altra l'abuso degli antibiotici a cui il nostro organismo si sta sempre più abituando. Sarebbero queste le prossime pandemie possibili? Nel giornale radio la nostra intervista al virologo Roberto Luzzati, in procinto di andare in pensione. 150 immagini, di cui 5 inedite scelte espressamente dall'autore. Inaugurata ieri al Salone degli Incanti di Trieste la mostra fotografica Sguardi sul mondo del fotografo statunitense Steve McCurry. Focus sui diritti dei bambini per la prima giornata della 21ª edizione del Premio Giornalistico Internazionale Marco Lucchetta, dedicato alla difesa della libertà di stampa e dei diritti. Il presidente della giuria, Riccardo Iacona, sottolinea i tanti conflitti che ci circondano, evidenziano che non riusciamo a trovare mediazioni nonostante la perdita di tante vite umane. Venerdì 15 novembre 2024, sono le 7:21 minuti 20 secondi. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale. Ai microfoni con voi stamattina Maria Spezia e Antonio Cagliazza. Situazione meteorologica: cielo sereno su tutta la regione, poco nuvoloso sul Tarvisiano. Le temperature alle 6. A Trieste 7 gradi, a Udine meno 5 decimi, a Gorizia e a Pordenone meno 1 grado e 5, Forni di Sopra 1 grado e 5, a Tolmezzo e a Piancavallo meno 2, Tarvisio meno 2,5, Sappada meno 3,5, sullo Zoncolan 3 gradi, sull'Ussari 0, a Grado 4,5, a Lignano 4. Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per oggi: cielo sereno poco nuvoloso per velature fino al mattino, sulla costa soffierà bora moderata, poi borino, gelate notturne in pianura e nei fondivalle. In apertura le retribuzioni dei medici. I loro stipendi in Friuli Venezia Giulia sono in media fra i più bassi in Italia. E i medici triestini sono pagati meno di quelli di Udine. Lo afferma l'associazione Costituzione 32, guidata dal medico ed ex politico Walter Zalucar. Pensare che a Trieste un medico prende una retribuzione di 81.000 euro lordi anno e a 70 km di distanza e il suo collega è pagato 87-88, direi che è assolutamente inaccettabile. 6.000 euro l'anno di differenza tra lavorare all'ospedale di Trieste e quello di Udine. I medici triestini sono i professionisti con una delle buste paga più magre d'Italia. A dirlo Walter Zalucar, medico dell'emergenza in pensione con un passato politico e ora guida un'associazione costituzionale Costituzione 32. Se i medici italiani, secondo la FEMS, Federazione dei Medici Dipendenti, sono tra i meno pagati in Europa, in Friuli Venezia Giulia, dice Zalucar, va pure peggio. Come fa a dirlo? Ma abbiamo guardato sui dati del Ministero Economia e Finanze, il MEF, e da lì risulta che in Friuli Venezia Giulia la retribuzione annuale lorda è inferiore alla media nazionale. 85.590 euro la retribuzione media nazionale, 84.327 quella regionale, 1.263 euro in meno l'anno, che però va detto dipende da tante voci, anche dall'anzianità del personale, dalla tipologia di incarico, dalle prestazioni aggiuntive. Più grave però, insiste Zalucar, è la differenza tra aziende della stessa regione. Udine, secondo i dati estrapolati dal MEF, sarebbe la più generosa, con una retribuzione media di 87.494 euro. L'assessore alla salute Riccardo Riccardi non ha voluto commentare i dati. Secondo i sindacati, la disparità di trattamento è cosa nota. Di recente, ricorda Alberto Operatoner, segretario AROI, sindacato degli anestesisti, all'interno della stessa Asugi gli obiettivi erano stati pagati in modo diverso, 5.000 euro a Gorizia, 700 a Trieste. La cosa è stata risolta in extremis. La perequazione tra gli stipendi dei medici in regione, ha detto Massimiliano Tosto, segretario regionale ANAO Assomed, è stata una nostra battaglia mai vinta, ancora prima del Covid. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Passiamo all'economia, arriva un nuovo segnale di rallentamento, il ricorso alla cassa integrazione torna a crescere, l'allarme lanciato da sindacati e associazioni di categoria, in particolare difficoltà alle aziende nei settori della meccanica e del legno. Torna a crescere il ricorso alla cassa integrazione in regione. Le ore autorizzate dall'INPS tra gennaio e settembre di quest'anno sono aumentate del 14% rispetto al 2023, solo a settembre del 32% confronto a un anno fa. In difficoltà soprattutto le aziende della meccanica e del legno. Una fotografia scattata dalla CGIL regionale che esprime preoccupazione, prevedendo un peggioramento già a partire dai prossimi mesi. Preoccupazione condivisa da Confartigianato, che conferma la stagnazione tra le imprese artigiane della subfornitura. Le 500 che ha intervistato nell'ultima indagine congiunturale l'avevano previsto. L'associazione di categoria rileva che solo nell'ex provincia di Udine, per questo, le richieste di cassa integrazione artigiana sono aumentate di un terzo tra gennaio e ottobre rispetto allo stesso periodo del 2023 e che le realtà più dinamiche si stanno riposizionando su altri mercati e produzioni. Lo stesso nell'industria e nelle piccole e medie imprese, che oggi appaiono le meno in allarme. Le Confindustrie reputano che il sistema sia ancora in tenuta, anche se con Fapi Friuli Venezia Giulia non esclude un'onda lunga come già in passato. Tutto dipende, a loro avviso, da come evolverà la recessione della Germania, il nostro principale mercato, e la tempistica della transizione ecologica che da più parti si auspica l'Unione Europea possa rallentare. La regione intanto lavora sulla programmazione futura con l'agenda Manifattura 2030, varata insieme all'associazione di categoria, un piano che individua le strategie di sviluppo a lungo periodo del sistema produttivo regionale e che si conta di attuare già con la nuova manovra di stabilità. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. È deceduta ieri sera la 77enne residente a Treviso, Egle Orzan, che ieri pomeriggio era stata investita a Trieste in viale Miramare nei pressi del bivio, mentre attraversava la strada in un punto in cui non ci sono le strisce pedonali. La donna, che era un'esule istriana, si trovava sul posto in gita col marito e in seguito all'urto con l'auto, che era diretta verso il centro città ed era guidata da un 89enne del posto, è stata sbalzata per diversi metri. Sul luogo è intervenuta la polizia locale, in aggiunta ai sanitari del 118 con auto mediche ed ambulanza, che hanno constatato le gravissime condizioni dell'anziana in arresto cardiaco e l'hanno portata al pronto soccorso di Cattinara in codice rosso, dove poi è deceduta a causa delle gravissime ferite riportate. Per contrastare il fenomeno dei giovanissimi che durante i weekend giungono a Pordenone da fuori città per sfidarsi in atti di violenza, il Comune ha messo in campo una serie di misure. Una nuova ordinanza firmata ieri mattina prevede il divieto di consumo di alcolici in spazi pubblici su tutto il territorio comunale fino al 28 febbraio 2025. L'ordinanza non si applica tuttavia agli eventi e alle manifestazioni autorizzate come le casette di Natale in piazza 20 settembre e ai dehors dei bar. L'obiettivo è quello di ridurre il consumo di alcol in contesti non regolamentati e prevenire comportamenti devianti, garantendo una maggiore sicurezza per i cittadini. È stato stanziato poi un fondo per coprire gli straordinari della polizia locale, con l'obiettivo di intensificare i controlli, in particolare nel fine settimana e nell'area della stazione ferroviaria, come stabilito dal piano sicurezza concordato tra il prefetto e il questore. Inoltre, come annunciato dal comandante della polizia locale, il corpo sarà potenziato con l'aggiunta di 3 nuovi agenti. Lavoro povero, famiglie senza abitazione, disuguaglianze. Questa è la fotografia di un'Italia che soffre, quella scattata dal rapporto su povertà ed esclusione sociale della Caritas, presieduta dall'arcivescovo di Gorizia, Monsignor Redaelli. L'incidenza di povertà assoluta a livello nazionale è pari al 9,7% tra gli individui e all'8,4% tra le famiglie. L'incidenza della povertà assoluta fra le famiglie con almeno uno straniero si attesta al 30,4%, si ferma invece al 6,3% per le famiglie composte solamente da italiani. Monsignor Carlo Roberto Maria Redaelli, presidente di Caritas Italiana, sottolinea che bisogna passare dai dati alle persone. Questi dati, che Caritas confronta ovviamente con i dati dell'Istat, sono di persone concrete che vengono anche aiutate. Quindi i centri di ascolto di Caritas sono 3.100 quelli che raccolgono i dati, in realtà sono molti di più, ma questi diciamo sono quelli in rete. Ovviamente non si limitano a raccogliere i dati, ma vengono incontro alle persone. Gli ultimi dati non frenano la serie storica. L'incidenza delle famiglie in povertà assoluta si mantiene più alta nel Mezzogiorno, dove coinvolge il 10,2% delle famiglie, seguita dal Nord-Ovest con un'incidenza dell'8% e il Nord-Est con il 7,9%, mentre il Centro registra i valori più bassi, il 6,7%. Al nord pesa di più il costo della vita e la questione abitativa, un problema sentito anche nella nostra regione, dove sono 30.000 le famiglie in povertà relativa. C'è il problema dell'abitazione sicuramente, questa pesa parecchio, e c'è il problema poi anche della povertà anche delle famiglie, soprattutto con bambini, questi soprattutto gli stranieri, ma non solo, perché anche questo è un dato recente. 1.290.000 i minori in povertà assoluta, il 13,8%, il valore più elevato dal 2014. Le difficoltà economiche si tramandano tra generazioni. Chi viene aveva anche i genitori che erano poveri, probabilmente anche i nonni, e questo si scontra anche con la povertà educativa, per esempio, perché non è solo questione di dare un aiuto dal punto di vista economico. In Italia, ereditare la povertà generazionale è il 34% degli adulti tra i 25 e i 59 anni. In Europa il dato si attesta al 20%. Gorizia, Andrei Marusic, TGR Friuli Venezia Giulia. Nel 2023 la natalità in Italia ha raggiunto un nuovo minimo storico con circa 380.000 nati, un calo che ha riguardato anche il Friuli Venezia Giulia, dove i nati sono stati 6.900, il 4,1% in meno rispetto al 2022. Il 2023 ha segnato un nuovo record negativo per la natalità, con poco meno di 380.000 nuove culle a livello nazionale, una tendenza che riguarda anche il Friuli Venezia Giulia, dove l'anno scorso i nuovi nati sono stati 6.976, il 4,1% in meno del 2022. In regione la percentuale di bambini tra 0 e 2 anni sul totale della popolazione è dell'1,83%, non lontano dall'1,49% della Sardegna, ultima in Italia. Sempre in Friuli Venezia Giulia, in 5 comuni, Barcis, Dogna, Drenchia, Savogna e Stregna, non risiedono bambini di età compresa fra 0 e 3 anni. Sono solo alcuni dei numeri che emergono dal 15° Atlante dell'infanzia a rischio in Italia, pubblicato dall'ONG Save the Children, che si concentra anche sulle opportunità sociali, illustrando come in regione un minore su 10 vive in povertà relativa, la media nazionale è del 22,2%. A pesare sono soprattutto i costi per latte e pappe, cresciute quasi del 20% negli ultimi 5 anni. Raffaella Milano, direttrice ricerche Save the Children Italia. L'investimento del PNRR a favore della costruzione dei nuovi asili nido deve riuscire ad arrivare in tutti i territori che oggi sono più indietro. In Friuli Venezia Giulia i bambini che trovano posti negli asili nido sono il 38,3%, un dato superiore alla media italiana ma ancora lontano dal target del 45% fissato dal PNRR, quota che dovrebbe essere raggiunta proprio grazie agli investimenti del piano, che in regione ammontano a circa 1.600 euro per ogni bambino nella fascia 0-2 anni. Guardando poi alla sanità, il rapporto evidenzia la scarsità di pediatri. Nel 2022, in regione, ciascun professionista doveva seguire 1.135 minori contro una media nazionale di 993. Daniele Lettig, TGR Friuli Venezia Giulia. A Udine è in programma un corteo studentesco con partenza da Piazzale Cavedalis alle 9 e attraversamento del centro cittadino, che è stato organizzato dall'Unione degli Studenti del Friuli Venezia Giulia. La manifestazione è intesa a porre l'accento su diritto allo studio, benessere psicologico, percorsi formativi efficaci e su un'edilizia scolastica adeguata. Le rivendicazioni sono state elencate in un manifesto che sarà presentato all'assessora regionale allo studio, Alessa Rosolen. Aumento delle richieste di aiuto al centro antiviolenza di Udine, crescono i contatti telefonici e l'affluenza nelle case rifugio. Più telefonate, più richieste di aiuto. I dati del centro antiviolenza Zero Tolerance del comune di Udine mostrano un incremento delle attività tra il 2023 e il 2024. L'anno scorso sono stati 248 i contatti registrati dallo sportello di ascolto telefonico, mentre quest'anno erano già 249 solo alla fine di ottobre. La maggior parte delle chiamate provenivano proprio da donne vittime di violenza. Sono dati preoccupanti, ma nel quadro emerge anche una maggiore consapevolezza del problema e soprattutto una crescente fiducia nel centro da parte delle vittime. Quest'anno le donne prese in carico sono state 171 rispetto alle 166 del 2023 e fino a ottobre sono stati 28 i nuclei familiari che hanno trovato ospitalità nelle case rifugio contro i 18 dell'intero 2023. Un problema che richiede però sempre più informazione e sensibilizzazione, e proprio in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che cade il 25 novembre, il comune di Udine ha programmato un mese di eventi a partire da metà novembre per un totale di 17 appuntamenti. È il calendario Vive e Libere, che vede la collaborazione di 20 partner, tra cui l'Università di Udine, ma anche associazioni di categoria come Confartigianato e Confcommercio e altri enti. Un'iniziativa che si snoda su incontri di riflessione, presentazioni di libri, appuntamenti per promuovere l'autonomia economica delle donne e spettacoli, ma anche percorsi di sensibilizzazione ed educazione, come la diffusione degli adesivi con il numero 1522, numero unico nazionale antiviolenza e stalking, da esporre negli spazi dei pubblici esercizi riservati alle donne. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Primo appuntamento per il percorso formativo gratuito Donne e Denaro per costruire la tua indipendenza, che proporrà l'incontro intitolato Introduzione al microcredito. Scopri come il microcredito può trasformare le tue idee in realtà. Appuntamento Udine, in Fiera, in Sala Bianca, alle 17.30. Per risolvere i problemi di viabilità nella Valcellina, l'assessore regionale Amirante ha annunciato interventi a Barcis e ad Andreis. A Barcis sarà avviato un intervento di pulizia e sghiaiamento. Ad Andreis, nel breve termine, sarà realizzata una strada temporanea. Interventi risolutivi per una viabilità, quella della Valcellina, che piogge e frane continuano a mettere in crisi. L'assessore regionale Amirante, nell'incontro con i sindaci del territorio e i tecnici di FVG Strade, punta a soluzioni definitive a Barcis sulla strada regionale 251, per quattro volte a rischio chiusura per gli allagamenti durante le precipitazioni fra settembre e ottobre. Serve un intervento di pulizia e sghiaiamento per permettere il deflusso delle acque nel punto critico. Si lavorerà con lo strumento della somma urgenza, che consentirà un iter più rapido per la progettualità e quindi per effettuare poi i lavori nel 2025. La viabilità di Pala Barzana ad Andreis, invece, dove la frana ha interrotto il passaggio, sarà ripristinata con un doppio intervento. Nel breve sarà realizzata una strada temporanea a senso unico alternato a vista. Le rilevazioni, grazie ai sensori dei movimenti franosi, hanno fatto emergere che il fronte è molto diverso da quello che aveva interessato la stessa strada diversi anni fa. Perciò, per una soluzione definitiva sarà necessario, aggiunto l'assessore regionale Amirante, acquisire altre informazioni in un arco temporale più lungo. Si lavorerà così contemporaneamente su due fronti: una soluzione temporanea che prevede l'utilizzo dell'attuale pista di cantiere esistente e una progettualità di recupero, tutto con le risorse già a disposizione, pari a complessivi 2 milioni di euro. Pordenone, Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia. In occasione del 100° anniversario della nascita della Latteria Sociale Turnaria di Trivignano Udinese è stato organizzato un approfondimento con Francesco Zaccheo dell'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia in tema Le Latterie Sociali in Friuli, salvaguardia del latte crudo e del saper fare, che si terrà al Teatro Parrocchiale in Via Palma alle 19.30. A seguire è previsto un intervento di Paolo Valdinoci intitolato Il valore nutrizionale del formaggio, al termine la proiezione del filmato dedicato al centenario della Latteria di Trivignano Udinese. Il virologo Roberto Luzzati, prossimo alla pensione, lancia l'allarme sui pericoli delle nuove malattie come dengue e West Nile, dovute anche al cambiamento climatico, e poi sull'abuso degli antibiotici. È occulta, silenziosa, ma presente, potenzialmente mortale, la pandemia da antibiotico resistenza, la nuova emergenza che dovremo affrontare. Cioè il fatto che i batteri, per un uso non sempre controllato, talora smodato degli antibiotici, si difendono. Cioè ci confrontiamo tutti i giorni con infezioni dovute a batteri antibiotico resistenti. Facciamo troppo uso? Facciamo troppo uso, anche autonomo, cioè molti di noi hanno nella propria casa antibiotici che vengono autosomministrati. È abituato a guardare avanti anche ora che si avvicina alla pensione Roberto Luzzati, professore e direttore delle malattie infettive di Trieste, che incontriamo a 15 giorni dalla pensione. 40 anni di lavoro, due pandemie importanti negli anni 80, quella dell'HIV, poi la più recente, la pandemia da Covid. Due anni fa il reparto da ospedaliero è diventato universitario, è stata aperta per la prima volta la scuola di specialità. I primi studenti erano al terzo anno di medicina quando il Covid era scoppiato. Quando ha scelto di intraprendere questa strada? Nicola, benvenuto, specializzando. La scelta era arrivata in realtà già prima della pandemia. Chiaramente però quello che è successo nel corso degli ultimi anni ha incentivato il mio interesse verso le malattie infettive e quindi diciamo che io, avendo già svolto comunque l'università qua a Trieste, ho deciso poi di proseguire i miei studi qua appunto a Trieste. Trieste, una vita di anni, TGR Friuli Venezia Giulia. Provengono da 38 paesi gli scienziati che parteciperanno agli eventi in programma per i 60 anni di attività del Centro di Fisica Teorica Abdus Salam, ICTP, di Trieste. Sotto la lente temi quali le frontiere della scienza, il futuro del calcolo scientifico e della scienza quantistica e il ruolo dell'ICTP come modello di diplomazia scientifica. Tra gli ospiti il premio Nobel per la fisica nel 2004 David Gross e Marc Mézard, docente di fisica teorica a Milano all'Università Bocconi. Appuntamento a Trieste al campus dell'ICTP dalle 9. Prima giornata della 21esima edizione del premio giornalistico internazionale Marco Lucchetta, in calendario a Trieste fino a domenica, è dedicato al ruolo del giornalismo nella difesa della libertà di stampa e nella tutela dei diritti umani, con un focus sui diritti dei bambini. Primo appuntamento l'inaugurazione della mostra Diario di Bordo, storia di una nave da soccorso che racconta le missioni di soccorso lungo la rotta mediterranea e alla frontiera di Trieste, al Teatro Miela alle 16.45. A seguire il giornalista e presidente della giuria, Riccardo Iacona, condurrà l'appuntamento di apertura intitolato Il diritto dei bambini e delle bambine alla speranza, un premio per illuminare le vie della pace, che vedrà protagonista Daniela Schifani Corfini Lucchetta, presidente della Fondazione Lucchetta Ota d'Angelo Hrovatin. Abbiamo intervistato Iacona per chiedergli cosa emerge dai servizi che sono stati selezionati. Sono tutte storie che riguardano appunto le tante guerre che ci circondano e che non accennano a diminuire, ma anzi, diciamo, si accendono fuochi e possibili escalation, e poi ci sono le guerre interne, cioè le guerre nostre, tutto con l'occhio legato al diritto dei bambini e delle bambine ad avere una speranza, no? Quindi il focus è stato soprattutto quello dei bambini, come sempre. Noi abbiamo cercato di scegliere la qualità, naturalmente, e quella ci sarà tutta, ma anche di avere uno sguardo ampio in maniera tale che un po' tutte le crisi e le questioni che oggi sono sull'agenda nazionale e internazionale siano rappresentate. C'è stato in particolare un servizio che l'ha commossa, coinvolta di più? Ma io insomma sono già tre volte che vado in Ucraina, seguiamo da vicino molto le questioni del Medio Oriente, lì in entrambi i conflitti stanno succedendo delle cose pazzesche che rimarranno nella storia di questi anni 2000, cominciati già malissimo con l'attacco alle Torri Gemelle, doveva essere l'anno, è diventato il secolo della guerra, no? E siccome conosco bene da vicino quelle due vicende, quei racconti mi risuonano dentro ancora con più forza, perché qui la rabbia è, e sarà un po' il sottotitolo di tutti questi tre giorni intensi, è che non riusciamo a illuminare le vie della pace, questo naturalmente, ma soprattutto che abbiamo consentito prima, durante e ancora adesso che la guerra vada avanti. Ecco, è incredibile come il mondo non sia riuscito a trovare dei momenti in cui spendersi effettivamente, intanto per abbassare la tensione, intanto per far cessare il fuoco, intanto per buttare acqua sulla benzina e aprire quei canali diplomatici che poi prima o poi ci saranno. Il punto è che nel frattempo perdiamo vite umane, si allontanano i destini del mondo e diventa sempre più profondo il fossato che divide le parti che sono in combattimento. Inaugurata ieri al Salone degli Incanti di Trieste la mostra del fotografo statunitense Steve McCurry, famoso per la celebre fotografia della ragazza afghana scattata nel 1984. La mostra sarà visitabile fino al 4 maggio. Con 150 immagini e 5 inedite scelte espressamente dall'autore, si è inaugurata al Salone degli Incanti di Trieste la mostra fotografica Sguardi sul mondo di Steve McCurry. L'allestimento accompagna, attraverso le sapienti scelte cromatiche e le inquadrature introspettive dell'autore, famoso per i coinvolgenti ritratti, i viaggi tra cultura e tradizione di tutto il mondo. In questa nuova esposizione una particolare attenzione all'ambiente e agli animali. Biba Giacchetti, curatrice della mostra. Abbiamo delle fotografie che parlano della contiguità tra l'universo umano e quello animale, come gli umani possano in certe situazioni sopravvivere grazie al fatto che esistono gli animali, oppure come scelgono dei loro propri animali di compagnia che in certe latitudini possono essere per esempio dei serpenti o dei topi o delle galline. McCurry non era presente all'inaugurazione, ma ha voluto mandare un videomessaggio con un preciso impegno espresso dalla curatrice. Quando è stato a Gorizia per questa manifestazione si è detto: mi piacerebbe approfondire tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia, perché sono un lavoro di ritratti che racconta delle storie che hanno proprio interessato la città di Gorizia e Nuova Gorizia. L'esposizione sarà aperta fino al 4 maggio 2025 e rientra tra gli eventi di Go 2025 in France, che vedranno Nuova Gorizia e Gorizia capitali europee della cultura. Trieste, Biagio Ingenito, TGR, Friuli Venezia Giulia. Giornata d'esordio per la mostra fotografica retrospettiva dedicata al fotografo americano Richard Calvar, che nel corso della cerimonia di inaugurazione sarà insignito del Premio Internazionale di Fotografia 2024. In allestimento oltre 80 foto in bianco e nero che esplorano l'apparenza e il rapporto ambiguo con la realtà mediante immagini spontanee scattate in luoghi pubblici come marciapiedi, parchi, zoo, fermate dell'autobus. Appuntamento a Spilimbergo, a Palazzo Taddea alle 18. La mostra sarà visitabile fino al 26 gennaio. Secondo giorno del Fake News Festival, ciclo dedicato alle notizie false o fuorvianti, prosegue con la rassegna stampa del mattino, che proporrà una carrellata semiserie di notizie bufale curata dagli autori del sito satirico di Finte Notizie Lercio, fra cui Andrea Sesta e Giampaolo Polesini, a Udine al Baradoro Caffè in Piazza Venerio tra poco alle 8. Nel pomeriggio è in programma l'incontro Alfabeto Maggiore, educazione permanente e lotta alle fake news all'Hotel Astoria alle 16, a cui seguirà un appuntamento dedicato a romanzi, finzioni narrative e verità storiche alle 18. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti. Promuovere le connessioni fra natura e cultura è l'obiettivo del progetto Eroica Impresa, la memoria del legno, che coinvolge 10 biblioteche della regione. Attraverso incontri con 20 classi delle scuole primarie e secondarie si è parlato della memoria del bene e ciascuna classe è stata nominata custode di una biografia esemplare, tra cui quelle di Franco Basaglia, Giovanni Falcone e Liliana Segre, a cui l'albero del proprio comune della biblioteca sarà intitolato. Da oggi e fino al 28 novembre è in calendario un ciclo di intitolazioni che coinvolgerà i comuni partecipanti al progetto, con appuntamento odierno a San Canstean di Sonzo con l'intitolazione di un bagolaro all'attivista statunitense contro le discriminazioni razziali Rosa Parks alle 10:30 nel giardino della biblioteca comunale a Pieris. Si ispira al film Premio Oscar di Sylvester Stallone, lo spettacolo Rocky, the musical, in cui si parla di trionfo dello spirito e forza dell'amore. L'allestimento, diretto da Luciano Cannito, interpretato da Pierpaolo Petrelli e Giulia Ottonello, racconta la storia di un giovane pugile davanti a una grande prova con il match contro il campione mondiale in carica dei pesi massimi. Sullo sfondo, la vicenda di un amore che offre un rifugio di emozioni in contrasto con la brutalità del pugilato e che diventa la vera forza del protagonista. A Trieste, al Politeama Rossetti, alle 20:30. Ed ora la rassegna stampa. L'ex hotel Adriatico di Grignano al centro di fisica. Questo è il titolo principale della prima pagina del Piccolo di Trieste. Donazione degli Stati Uniti per acquistare l'immobile. Si stima un valore di 10 milioni. L'edificio sarà comprato col contributo della Simons Foundation. L'ICTP proprio oggi festeggia i 60 anni di vita. Con una foto scattata al bivio di Miramare, la notizia della morte dell'anziana che ieri è stata investita mentre attraversava la strada. A centropagina, la foto della panchina gialla in memoria di Giulio Regeni, inaugurata ieri all'area Science Park. Altro richiamo di prima pagina del Piccolo di Trieste. In Consiglio regionale primo sia la legge per la parità uomo-donna. Si tratta di una legge che intende istituire una commissione per le pari opportunità. La proposta è stata avanzata da tutte le consigliere. Richiamo in prima pagina anche per l'avvio dei lavori di ristrutturazione della succursale di Largo Sonnino del Liceo Petrarca, un cantiere da 8 milioni. Lo sciopero della scuola, di cui vi abbiamo dato conto poco fa, apre entrambe le edizioni del Messaggero Veneto, che condividono anche un titolo sulla mostra antologica dell'artista udinese Giorgio Celiberti, inaugurato lo scorso venerdì a Bruxelles. L'edizione di Udine del Messaggero in capocronaca informa sulle due nuove linee di bus che collegheranno il centro e sulla fine della sperimentazione della linea 1 che si fermerà di nuovo in piazza Aquileia e di cui vi abbiamo dato conto mercoledì. Spazio poi al Banco Alimentare, domani in calendario, e poi al decesso della 22enne di Castions che una settimana fa, mentre guidava, aveva urtato un muro per poi ribaltarsi a causa dell'impatto. Il Gazzettino di Udine apre sulla missiva del consigliere regionale di centrodestra Marcus Maurmeier, missiva intesa a indagare con esperti il progetto di interventi in chiave di gestione del rischio alluvionale al fiume Tagliamento. Altro titolo, quello sulla tassa di soggiorno cittadina, Udine in avvio a gennaio, per la quale gli operatori della ricettività chiedono un rinvio. La fotonotizia è per la chiusura delle indagini sul decesso di Claudia Brunino, investita a Pasqua, Tarcento. L'accusa per l'investitore ora di omicidio stradale con l'aggravante della velocità. Edizione di Gorizia e Monfalcone del Piccolo. Caso Duce, l'ira di Lubiana, la reazione del Ministero degli Esteri sloveno dopo il no di Gorizia alla cancellazione della cittadinanza. Atto grave, non è piaciuto nella vicina Slovenia il no del Consiglio Comunale di Gorizia alla cancellazione della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, una mossa che potrebbe gettare qualche ombra anche su Go 2025, e questo l'attacco del pezzo che poi prosegue all'interno. Un fatto di cronaca a Monfalcone. Aiuta una donna dopo l'incidente e viene picchiato da tre residenti. Ha soccorso una donna dopo un incidente, ma è stato scambiato per il responsabile del sinistro ed è stato malmenato. Nel paginone culturale del giornale, ovviamente anche nell'edizione triestina, la grande mostra fotografica di Steve McCurry, inaugurata ieri al Salone degli Incanti a Trieste. Il capocronaca dell'edizione di Pordenone del Messaggero informa sull'appello della polizia locale per trovare tre agenti di cui vi abbiamo dato conto poco fa. Da Aviano, la riapertura della casa di riposo a Prade Plana, prevista in gennaio, dove potranno trovare posto 43 ospiti in 28 stanze. Da Maniago, i danni ingenti subiti da un laboratorio per la verniciatura di mobili che si è preso fuoco mercoledì. Il divieto cittadino al consumo di alcol apre l'edizione di Pordenone del Gazzettino, che in fotonotizia si occupa dell'iniziativa del parroco di Prata, che ha deciso di installare un servizio di videosorveglianza in oratorio a causa dei tanti che sporcano, scavalcano i cancelli oltre gli orari stabiliti o dicono volgarità in presenza dei più piccoli. Da Spilimbergo, i 24 posti disponibili nel reparto medicina dell'ospedale sui 35 che sarebbero previsti a causa però della carenza di personale. Dai quotidiani nazionali. Il quotidiano La Stampa pubblica un servizio sull'incidente di Caselle dello scorso anno in cui una bambina perse la vita perché investita da un aereo delle Frecce Tricolori. Ieri è iniziato l'esame tecnico dei consulenti sulla carcassa dell'aereo. Le ipotesi dell'avaria dell'aviomobile rovinato a terra e quello dell'impatto tra l'aereo e un volatile. Agli atti la foto di un amatore che mostra un gabbiano sopra l'Air Macchi poi caduto. Il concerto del premio Pordenone Musica con Salvatore Accardo e l'orchestra da camera, in programma oggi al Teatro Verdi, è stato rinviato per motivi di salute dell'artista. La nuova data sarà comunicata a breve, biglietti e abbonamenti rimangono validi. È lo scrittore Mauro Kovacic, il protagonista del monologo Kafka, in cui si propone una lettura del libro dell'autore triestino dedicato al grande scrittore praghese, accompagnata dalle musiche di Francesco Antonioni. In scena il soggiorno triestino di Kafka, che l'indagine di Kovacic rivive fino agli archivi delle generali, dove la grafia del praghese sembra seguire l'alienazione di un lavoro d'ufficio in cui non c'è spazio per la letteratura. Appuntamento a Trieste, al Teatro Rossetti, alle 19.30. Propone una riscrittura contemporanea del personaggio omerico lo spettacolo Pi come Penelope dell'attrice e drammaturga Paola Fresa. Sul palco un personaggio traumatizzato, protagonista itinerante di un'indagine che dal mito arriva alla contemporaneità sui temi della femminilità, della maternità, del rapporto tra educazione ed identità personale. A Udine, al Teatro Palamostre, alle 21. L'attore Alessandro Haber sarà protagonista dello spettacolo teatrale La coscienza di Zeno, tratto dal capolavoro di Italo Svevo, a Spilimbergo, al Teatro Miotto, alle 20.45. È dedicato ad Eddie Walter Cosina, l'agente di polizia muggesano che perse la vita il 19 luglio del 92 nell'attentato di Via D'Amelio a Palermo, insieme al giudice Paolo Borsellino e agli altri membri della sua scorta. Lo spettacolo Il mio nome è Eddie, oggi al debutto a Muggia, al Teatro Verdi, alle 20.45. Lo spettacolo non intende ricordare soltanto Eddie Cosina come agente di polizia caduto in servizio, ma punta a svelare il lato umano, profondo, complesso di un uomo che scelse di dedicare la propria vita alla sicurezza del paese, affrontando sfide personali e sociali. L'ingresso è libero fino all'esaurimento dei posti. Si intitola Svergognata, lo spettacolo in cartellone per la 20ª rassegna La scena delle donne, diretto da Francesco Brandi e con protagonista Antonella Questa, che ne è anche autrice. In scena una riflessione sul valore del giudizio degli altri, il bisogno di approvazione, la schiavitù dell'immagine e della desiderabilità sociale che distraggono le donne da ciò che davvero desiderano e da ciò che sono. A Pordenone, alla Sala Capitola, alle 21. 33ª edizione del Festival Internazionale di Musica Sacra prosegue oggi col concerto Canti Sacri Tradizionali a Concordu, che sarà eseguito dalla formazione sarda Concordu e Tenore de Orosei, gruppo di interpreti delle musiche vocali sarde. A Pordenone, in Duomo, alle 20.45, l'ingresso è libero. Trieste come città di confine, il filo rosso del libro Nomade e Marinaio di Mario Maras, che verrà presentato a Trieste, all'Antico Caffè San Marco, alle 15.30. Sono le 7.55 minuti, 20 secondi. L'assistenza tecnica è stata curata da Eugenio Giuffrida, collaborato in redazione Laura Sarasini. Prossimi appuntamenti con la nostra informazione pochi minuti dopo le 11 su questa frequenza, il Flash, e poi l'edizione delle 12.30. Grazie della cortese attenzione. Da Maria Spezia e da Antonio Cagliazza, buona giornata e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.